Maria. Grande. Thank you. Buonasera, siamo Raita Satan di Argentina, di Francia, di Argentina, di Radicali, di Satanisti. Grazie a tutti.